Il popolo degli Achei o Micenei. Intorno al 2000 a.C., un popolo di pastori e guerrieri nomadi, provenienti dal nord della penisola balcanica, si stabilì nella Grecia meridionale, nella regione del Peloponneso. Erano gli Achei, che presero il nome di Micenei dalla loro città più ricca e potente, Micene. A partire dal 1600 a.C., i Micenei iniziarono ad avere scambi commerciali con i cretesi. Questi contatti influenzarono la civiltà micenea e favorirono il suo progresso economico e culturale. Intorno al 1450 a.C., i Micenei sottomisero l'isola di Creta e divennero i nuovi dominatori dei commerci marittimi. 2 secoli dopo, nel 1250 a.C., attaccarono le coste dell'Asia Minore, l'attuale Turchia, che gli antichi chiamavano anche Anatolia, e sconfissero la potente città di Troia. Questa guerra, durata 10 anni, è raccontata nell'Iliade, un poema, lunga opera e letteraria in versi, attribuito al poeta greco Omero. Intorno al 1200 a.C., la civiltà micenea scomparve, probabilmente a causa dell'invasione dei Dori, una popolazione proveniente da nord.